Dare il carcere prima significa in qualche modo prestabilire e rendere del tutto inutile il processo. La cosa scandalosa è che questi casi in Italia si vanno ripetendo. Ottaviano Del Turco si è fatto alcuni mesi in carcere e il processo deve essere ancora istruito. Si è chiuso il processo sulla Global Service a Napoli, in cui un imputato si è suicidato e si è chiuso con gran parte con assoluzioni. C'è un caso che non ha riguardato un cittadino eccellente, ma un cittadino sconosciuto, il caso del padre dei fratellini di Gradina, che si fece la carcerazione preventiva accusato di aver ucciso i figli e poi si rivelarono caduti incidentalmente. Quindi siamo di fronte a un uso della carcerazione preventiva intesa ad ottenere la confessione, che è una forma premoderna di diritto penale. Quasi a voler stabilire che ciò che regge il sistema giuridico italiano è la confessione, allora si torna alla tortura. La carcerazione preventiva, diciamo, noi l'abbiamo criticata tutti quanti dopo il 92-93, quando Di Pietro ne fece un abuso abnorme e si sperava che non si sarebbe più tornati indietro. Quindi noi ci troviamo di fronte a un cittadino catturato dallo Stato, come l'ingegner Scaglia, un cittadino eccellente, benemerito, del quale non conosciamo bene le imputazioni e non c'è stata nessuna prova dell'accusa, che peraltro ha dimostrato, come ha raccontato il suo avvocato, un'ampia volontà di collaborare con la giustizia ritornando in Italia mentre poteva trattenersi tranquillamente all'estero, quindi non ci sono le condizioni di questa carcerazione preventiva. Il guaio è che il magistrato non risponde mai. Il mio giornale oggi pubblica la documentazione sul flop di tutte le inchieste dei magistris. De Magistris oggi è parlamentare europeo e, come tanti magistrati, continuerà a fare quello che gli pare, indipendentemente dalle vite che ha distrutto e dalle attività economiche che ha troncato.